Era il 726 d.C., quando Leone III, imperatore bizantino, emanò l'editto per cui è passato alla storia: distruggere tutte le immagini sacre disseminate nel suo impero e perseguire chiunque si opponesse a tale decisione. Scoppiò la cosiddetta lotta iconoclasta, a causa della quale centinaia di migliaia di monaci bizantini, molti dei quali basiliani, cioè ispirati alla regola di San Basilio, furono uccisi, perseguitati e depredati dei loro beni. In tanti si misero per mare e a migliaia approdarono a Occidente, o meglio, alle sue porte. Toccarono terra in Puglia. Dalle coste salentine i monaci bizantini avanzarono in tutta la penisola meridionale, seminando una devozione e un sapore di Oriente che si sono radicati in questo territorio e non sono mai più scomparsi. Costretti a nascondersi e a vivere in clandestinità, sostenitori di una vita monastica e ritirata, i basiliani trovarono pace nelle carsiche terre di Puglia e Basilicata. Sparirono negli anfratti dei campi, trasformarono caverne e grotte in luoghi di rifugio e preghiera e cercarono la pace nel ventre ombroso di queste terre spaccate dal sole. Oggi di loro resta traccia in centinaia di chiese rupestri, riconoscibili, tra le altre ragioni, per la tipica presenza di un'effigie della Madonna a proteggerne l'ingresso, la Vergine Portinaia. Monaci basiliani arrivarono anche ad Andria, che d'altro canto è terra carsica, disseminata di gurghi, ampie depressioni naturali con pareti molto ripide, ricche di grotte solo in parte esplorate. Si sa con certezza che i pogei tufacei, ancora visibili e visitabili, sono oggi inglobati nelle chiese di Santa Maria dei Miracoli, Madonna dell'Alto Mare, Gesù della Misericordia e Santa Croce. Antiche grotte, millenari luoghi di culto su cui, non a caso, poi sono sorte chiese. Scopro con stupore che il sentimento religioso più autentico della città di Andria, in effetti, è legato a una di queste antichissime effigi bizantine, forse proprio una Vergine Portinaia. L'immagine è custodita presso il santuario Santa Maria dei Miracoli, l'edificio dal profilo sfumato per la foschia della sera che Annina mi indica e che ora intravedo all'orizzonte. Fu un tale Antonio Tucchio, narra la storia, artigiano di umili origini, a riscoprire l'immagine sacra. Una mattina, quasi in trance, Tucchio si mosse alla volta di un luogo carsico abbandonato, spinto da un sogno che lo aveva sconvolto. Nel sogno, la Vergine in persona lo esortava a raggiungere quello spazio dimenticato e a cercare una sua effigie a cui accendere un lume. Nello sgomento generale, Tucchio scoprì uno stupefacente affresco di Madonna con bambino. Era il 10 marzo 1576. La Madonna fu rinvenuta nella profondità di un ipogeo, in uno di quei piccoli ambienti carsici riportati con fatica alla luce e restituiti ai fedeli. Oggi sappiamo con certezza che l'immagine è da ricondurre ai culti basiliani. Dal 1576 la processione dei fedeli che andavano a omaggiare la Vergine riemersa dal suolo non si è mai fermata. Si diffuse anche la convinzione, come in molti luoghi simili, che l'effigie avesse poteri taumaturgici, ovvero che avesse potere di guarire i fedeli. Da qui, probabilmente, il nome Madonna dei Miracoli. Per secoli, i devoti sono partiti da ben oltre i confini cittadini per formulare le loro accorate preghiere. Oggi, il rito forse più sentito della città ha luogo proprio in onore di quella immagine. Per la Madonna dei Miracoli, ogni 29 agosto, si incammina una lunga processione notturna. Per espiare peccati e chiedere aiuto alla Vergine, molti fedeli procedono scalzi, taluni in ginocchio. Nel cuore della notte, una statua che riproduce la Madonna dei Miracoli esce dal santuario, mentre tutte le campane di Andria suonano a festa e attraversa, tra fiaccole, canti e commosse preghiere, la città, fino a raggiungere, alle prime luci dell'alba, la chiesa cattedrale. La statua viene custodita per qualche giorno, in previsione della festa dedicata ai santi protettori della città, San Riccardo e la stessa Madonna dei Miracoli, prima di rientrare nel proprio luogo di ritrovamento. oggi un santuario composto da tre diverse chiese e confinante con un monastero benedettino, custodisce l'effigie e ne preserva il valore. Il complesso monumentale è senza dubbio il bene culturale più importante che la città di Andria vanta dopo Castel del Monte.